ha aperto un piccolo commercio. I miei fratelli hanno ripreso la scuola. Alcuni vecchi compagni hanno cercato di avvicinarmi per parlare di quanto è accaduto, ma sono musulmani e io li tengo a distanza. Non voglio avere niente a che fare con loro. I musulmani hanno ucciso mio padre. Lo so bene che sono esseri umani, proprio come me. Eppure, dopo quello che è accaduto, io non penso che siamo proprio uguali. We are not the same with them. Sono esseri umani come noi, dice Patricia, ma in realtà il fossato, la separazione è stata realizzata attraverso naturalmente la drammatica sparizione del padre. Leonello Fani, buonasera, grazie di essere con noi. Ciao Gigi, buonasera. Leonello Fani è capo progetto di Apurimac a Jos, quindi Plateau, stato del Plateau, Nigeria, insomma i luoghi di cui parliamo. Leonello Fani, che ho avuto il piacere di conoscere appunto nel corso della preparazione del nostro lavoro attraverso l'Africa ormai dello scorso anno. Insomma, la testimonianza di Patricia ovviamente è esemplare di una situazione che sta dilagando. Purtroppo di Patricia in quella zona, in quella città, ce ne sono molte. Sì, io me ne rendevo già conto durante la prima crisi che ho vissuto, quella del 2008, del novembre del 2008, nella quale ci furono delle situazioni impressionanti, ovvero uccisioni tra vicini di casa, uccisioni anche di bambini. In quel periodo dissi e pensai che semi di odio così profondi e piantati così profondamente non si sarebbero sradicati con tanta facilità, e questo è quello che poi si è puntualmente verificato, ovvero che quei semi di odio sono ancora lì, e oggi la crisi di Jos è divenuta una crisi cronica, diciamo, e quindi ecco, ci sono ogni 2 o 3 mesi delle vendette reciproche che portano poi alla situazione che vediamo, ovvero una volta agiscono i cristiani contro i musulmani, la volta dopo è l'esatto contrario, e questo provoca una situazione di un'area fondamentale negli equilibri della Nigeria che è assolutamente instabile, ed è proprio lì che si gioca il destino del paese e probabilmente anche i destini regionali. Ecco. Ecco, perché la Middle Belt è una cerniera, lo è effettivamente nella tua esperienza, una cerniera tra due mondi? Sì, la Middle Belt lo è, e Jos è il cuore, insieme a Kaduna, di questa Middle Belt. Lo è perché la Nigeria, anche il più fervente nazionalista nigeriano, dice che la Nigeria è una mera espressione geografica, e la Middle Belt rappresenta proprio la fascia centrale di incontro-scontro, un nord musulmano e un sud cristiano, un nord caratterizzato da regole e tendenze, diciamo, economiche e demografiche di un mondo passato, e un sud invece più dinamico, un sud con una crescita più grande, ma con tutte, ecco, le contraddizioni anche che rappresentano le grandi crescite. Torniamo tra poco con Leonello Fani, lo ricordo, capo progetto di Apurimac. Apurimac, che è una ONG presente a Jos, anzi direi che è la ONG presente a Jos da alcuni anni. Prima proseguiamo appunto attraverso le strade della Nigeria, attraverso il racconto realizzato, che abbiamo realizzato appunto a Jos ormai qualche mese fa. La terza tappa del mio viaggio attraverso i paesi dell'Africa subsahariana mi ha portato attraverso il gigante del continente. Paese di una complessità fuori dal comune, la Nigeria è grande quanto 3 volte l'Italia e ha 150 milioni di abitanti, metà dei quali hanno meno di 18 anni. È un vero e proprio rompicapo etnico e linguistico che cerca da mezzo secolo di contrastare le forze centrifughe, riorganizzando il potere in una struttura federale sempre più complessa. Delle 3 macro regioni in cui era diviso nel 1960, il 1 ottobre saranno 50 anni di indipendenza, si è arrivati oggi a 36 stati federati, molto diversi tra loro sia in termini di sviluppo che di possibilità e risorse. All'interno di un confine tracciato dall'architettura coloniale britannica, i cosiddetti Big Three, che sono gli Hausa Fulani nel nord, gli Yoruba nel sud-ovest, gli Ibo del sud-est, alternano confronto a scontro in un paese in costante precario equilibrio. È anche per questo che da Lagos la capitale è stata spostata ad Abuja, nel centro del paese, ai confini di quella Middle Belt che è zona di transizione tra il nord musulmano e il sud cristiano. 3 ore di viaggio in auto a nord della capitale. Si sale verso Jos e lentamente l'altopiano smorza l'umidità insopportabile delle terre più in basso. Per la prima parte si attraversa rapidamente un territorio ondulato che sembra senza storia. Poi iniziano i posti di blocco che, via via che si prosegue, si fanno più frequenti quando si è ormai entrati nello stato del plateau. I posti di blocco servono a controllare il territorio, a impedire nuove tragedie, ma le violenze sono esplose comunque e non c'è nemmeno bisogno di allontanarsi dalla strada principale per misurare la sequenza e la forza della vendetta. Appena prima di entrare in città c'è Kurukarama, un villaggio dove il 17 gennaio scorso 150 musulmani sono stati attaccati e uccisi da un comando di uomini armati. 5 chilometri più avanti c'è Bukuru, scheletro di una comunità ridotto a un cumulo di macerie nella mattanza del 7 marzo. In questo caso il villaggio cristiano e i morti sarebbero stati 200. Mi fermo per qualche minuto nel villaggio deserto e mi ritrovo a pensare a una scena analoga che ho osservato 17 anni fa nella Kraina croata. Prima di allora credevo che certe cose potessero accadere solo in Africa, ma non è vero, sono accadute anche a 2 passi da casa nostra. E poi, qui come là, resta solo lo stesso silenzio vuoto che segue il pianto delle donne e le minacce degli uomini che promettono vendetta. Nel quartiere di Rantaia vedo in azione studenti e insegnanti del corso di taglio e cucito, di hairdressing, di quello di informatica, dove sono iscritti anche molti uomini. Fa tutto parte di un progetto sostenuto dalla ONG italiana Purimac con i padri agostiniani, che attraverso i corsi di formazione favorisce il contatto e il dialogo tra le 2 grandi comunità che la violenza tende a dividere. Renzia Community. Community di Renzia, e questo è un posto particolare perché questa è l'unica parte della città di Jos che non ha mai sperimentato tensioni religiose ed etniche. So you were saying that this is the only place in the Jos neighborhood that never experience crisis. Yeah, they are one. Quindi yes. Goodwill mi spiega i metodi di prevenzione. Could you explain in 2 words? Yeah, I'm talking about some mechanisms that have been put in place, an avenue where both Muslim youth meet together regularly. Quindi prima cosa, fare in modo che i giovani cristiani e musulmani si incontrino. And then a setup of an elder council. Seconda cosa, che si incontrino gli anziani. Yes, they meet regularly, they have a good relationship, and because the people have lived here for more than 10-20 years together. Il project manager è un nigeriano dello stato di Benue. Godwin Okoko Atepa ha studiato legge all'università e poi si è specializzato nelle tecniche di risoluzione dei conflitti che ora cerca di applicare dove sono più necessarie. Well, Jos used to be a very big city. Jos in passato era una città molto più dinamica di quella che vede oggi. Era un villaggio Birom fino agli anni 20. Poi lo sfruttamento delle miniere di stagno l'ha fatta crescere, richiamando gente dal nord musulmano e dal sud cristiano. Le tensioni sono iniziate quando le miniere hanno chiuso i battenti negli anni 80. Durante il regime del generale Babangida, la città è stata divisa in 3 aree amministrative, ricalcando la trasformazione federale dello Stato. L'idea era quella di separare le zone per evitare le tensioni, ma non ha funzionato. But predominantly houses. È una specie di Nigeria in miniatura. Yeah, because it Jos North precisely it's where you find almost. Sì, è vero soprattutto per Jos Nord, dove si possono trovare famiglie di ogni gruppo etnico nigeriano, mischiate tra loro in un modo difficile da districare. È per questo che chi è interessato a creare delle tensioni tra le comunità non si mette a scegliere la via etnica, ma insiste invece su quella religiosa. Qui in Africa noi abbiamo molto rispetto per le tradizioni e crediamo molto nella difesa della nostra fede. Intorno a questi temi le posizioni si radicalizzano molto facilmente e la gente si presta a ogni forma di manipolazione. I politici locali dicono spesso che Jos è diventata la prima linea di una vera e propria jihad, una guerra santa che si combatte lungo il fronte dell'evangelizzazione. Ma io credo che dietro a tutto questo ci sia una grande manipolazione politica e di interessi. Diciamo che vedo le cose diversamente e metto al centro di tutto una questione economica. Io vedo soprattutto un altissimo tasso di disoccupazione e vedo che se sei un politico e hai dei mezzi a disposizione, diventa molto facile manipolare quella grande massa di giovani disoccupati che passano giornate intere al mercato in attesa di qualcosa da fare. Vedo che se allunghi una banconota da 50 naira, allora ti compri la fedeltà di un ragazzo disperato. Joss appare dunque una polveriera in mano agli apprendisti stregoni. I musulmani Hausa e Fulani arrivati da nord si considerano discriminati dalla legge sulla cittadinanza, che definisce nativo solo chi può dimostrare di avere degli antenati nel territorio. Si emigra da uno stato nigeriano all'altro in cerca di condizioni migliori per sé e per la propria famiglia, ma si resta straniero in patria. C'è poi una divisione incancellabile tra chi fa parte di tribù contadine sedentarie, per lo più cristiani, e chi invece appartiene alle tribù nomadi dedite all'allevamento e alla pastorizia, gli Hausa Fulani, normalmente, di religione musulmana del Grande Nord. È quasi l'ora del tramonto e si deve rientrare. La destinazione finale della giornata è proprio accanto al mercato del legno, nella parte nord della città, in pieno quartiere musulmano. Qui c'è il monastero degli Agostiniani, fondato nel 67. Chiesa, refettorio, aule per le lezioni e una serie di piccoli bungalow in cerchio dove dormono gli ospiti. Il monastero è circondato da un muro di cinta e un blindato dell'esercito controlla la principale via d'accesso. Il cancello si richiude alle nostre spalle subito dopo averci fatto entrare e si avverte la sensazione di essere entrati in una sorta di cittadella. Intorno qui tutti noi eravamo spaventati veramente. C'era una grida. Padre Alex Long è psicologo di formazione, poi è diventato agostiniano e ora è superiore del seminario. In passato è stato anche capitano dell'esercito e forse è proprio grazie a questa fase della sua vita che nel novembre del 2008 la sua cittadella non si è trasformata in una trappola. Tutti vicino di noi dicendo Allahu Akbar vuol dire Dio è grande. Quando sentiamo questa cosa sempre c'è qualcosa che è brutta. Noi che viviamo con loro musulmani. Poi subito abbiamo visto la gente stanno bruciando le case. Eravamo veramente spaventati. Totalmente. Non sappiamo che cosa succederà in quel momento. Alla fine hanno, come si chiama, sfondato il muro. Sono entrati, poi hanno cominciato a bruciare la nostra casa. Poi gli studenti miei hanno portato almeno il bastone o qualcosa che possano difendere la loro vita, ma alla fine hanno colpito almeno 4 studenti e seminaristi. La ragione è un conquisto dei musulmani, veramente. Vogliono conquistare questa città che è al centro di cristiani del nord. Tutte le colpe da parte musulmana? No, non è tutte le colpe da parte musulmana. Per esempio, quella di gennaio è stato uno scontro terribile. Anche i cristiani hanno portato macette, anche tante cose per colpire anche i musulmani. Però adesso una risposta di Arabia. I cristiani dicono, padre, non possiamo correre più, dobbiamo difendere la nostra fede. Per questa ragione portiamo per difendere la vita che Dio ci ha dato. E per questa ragione loro sempre ultimamente colpivano anche i musulmani. Quando vengono di bruciare la casa, anche loro bruciano le case di loro. Quanto rischio c'è di escalation? Io non vorrei essere un profeta o pessimista. Sì, ma io penso che se succederà, sarà una cosa terribile. Ma preghiamo che non succeda. Ecco, in verità, pregare senz'altro, ma la politica, la comunità musulmana, la comunità cristiana di Joss si stanno incontrando, si stanno parlando? Sì, stanno parlando, ma anche c'è una nascita di comitati che vogliono essere un po' di relazione buona per capire queste due religioni bene, per vivere insieme. Ma ci sono alcuni che dicono no, in questo momento dobbiamo fare qualcosa di diverso per colpire anche loro. Ma speriamo che ci capiamo bene insieme, andando una strada che porta la convivenza, la relazione, anche la, come si chiama, per portare la vita avanti, posso dire. La pace? La pace, sì. Alla fine la pace, sì. Eccoci dunque, il viaggio attraverso la Nigeria, attraverso Jos, l'avete sentito. Torniamo con il nostro ospite, con Leonello Fani, che lo ricordo è capo progetto di Apurimac, appunto una ONG italiana presente a Jos da tempo. Ci siamo, come dire, abbiamo lasciato la Nigeria sulla voce di padre Long. Tu stesso peraltro sei stato, come dire, hai vissuto in primo piano quello che può essere la violenza, in questo caso anticristiana, in una città come Jos. Sì, sia nel 2008, nel novembre del 2008, sia nel 2010 io ero diciamo un testimone oculare degli eventi, e specialmente durante la crisi del 2008 ci trovammo proprio insieme a padre Alex Long all'interno del monastero agostiniano, monastero cattolico a Jos Nord, ovvero nella parte della città a maggioranza musulmana, e subito dopo i risultati elettorali di elezioni amministrative locali, i musulmani tacciarono di brogli la parte cristiana e attaccarono, diciamo, il simbolo cattolico di Jos Nord, e dunque il monastero nel quale io mi trovavo. Insomma, che fu una vera e propria battaglia, Alex Long l'ha raccontato, tu ce lo ricordi. Ecco, io vorrei tornare ad oggi, approfittando della tua presenza. Perché si parla, secondo te, di un salto di qualità? Peraltro nell'intervista Alex Long anticipa il fatto che, come dire, se dovesse continuare l'escalation sarebbe veramente disastroso. Beh, questo disastro oggi sembra imminente. Negli anni passati ciò di cui si parlava era di una circolazione di armi assolutamente fuori controllo, armi che arrivavano dentro con una facilità estrema e spinte anche da altri attori del conflitto, non propriamente nella dimensione locale, e questo già ci dava un po' dei sentori che ci fosse un ampliamento del conflitto a soggetti che non abitavano né nello stato di Plateau né tantomeno nella città di Jos. E quindi ecco, i fatti di oggi, collegati con tutte le analisi fatte precedentemente, i fatti di oggi ci dicono che la notte del 24 dicembre scorso ci sia stata una esplosione, quattro esplosioni in contemporanea in quattro differenti zone della città in una maniera assolutamente senza precedenti. E questo significa che non si tratta più di un conflitto combattuto da gruppi, seppur organizzati, ma sempre gruppi di ragazzi per lo più pagati per mettere a ferro e fuoco la città, ma si tratta di un vero e proprio atto terroristico che in quanto tale deve essere organizzato puntigliosamente, con tempi precisi e con modalità precise. E anche gli ultimi, diciamo, le ultime indiscrezioni che parlavano di una rivendicazione della setta Boko Haram, sembra che siano falsi campanelli d'allarme. Leggevo proprio ieri, insomma, delle testimonianze dalla BBC e anche, diciamo, sulla base delle nostre fonti locali, non sembra che siano verosimili le rivendicazioni fatte dalla setta Boko Haram, che, ricordiamolo, è la setta che nel 2009, nel luglio del 2009, il significato di Boko Haram è tutto quello che è Occidente è vietato, è proibito, deve essere proibito. Haram nello stato, nella città di Maiduguri, misero, diciamo, appunto una rivolta che fu conclusa nel sangue, ecco, dall'intervento dell'esercito nigeriano. Jos, avamposto del terrorismo internazionale? Diciamo che su questo fronte, non avendo delle prove concrete, insomma, non si può mai dire. Certo. Comunque la città città di Jos già per quanto ha riguardato gli eventi dell'11 settembre 2001 era stata, diciamo, attenzionata dai servizi segreti statunitensi e quindi già in quel caso si parlava di un coinvolgimento dell'islamismo internazionale attivo nella città di Jos. Dopodiché oggi abbiamo a che fare con un conflitto, il conflitto della Middle Belt nigeriana con cuore a Jos, che è un conflitto che deve essere spiegato su i tre livelli, ovvero il livello locale che ci parla di discriminazioni tra indigeni e non indigeni, e al di sopra di questo il livello nazionale che ci parla di una lotta per il potere senza quartiere. Quindi oggi la polarizzazione politica si combatte anche su linee religiose e dopodiché abbiamo il livello internazionale, senz'altro. Non dimentichiamo che la Nigeria è il paese più popoloso d'Africa, il gigante d'Africa, che con la Nigeria si giocano gli equilibri non solo dell'Africa occidentale ma anche di tutta l'Africa, e che la Nigeria ha una crescita demografica impressionante. Nel 1960 c'erano 40 milioni di abitanti, nel 2010 ce ne abbiamo 150 milioni e le tendenze demografiche ci dicono che nel 2050 la Nigeria avrà 300 milioni di abitanti, quindi un africano su tre sarà nigeriano. Esperti dicono che a seconda di come evolverà il conflitto interetnico ed interreligioso si può avere uno scenario diverso, o un superstato musulmano da 300 milioni di abitanti oppure tre differenti stati basati sulle differenze etniche. Leonello Fani, direi che grazie di essere stato con noi. Questo ci riporta anche alla nostra frase di partenza: se lo scontro appunto tra Oriente e Occidente si gioca in terra d'Africa, sicuramente si gioca in Sudan e in Nigeria. Due colossi anche petroliferi, energetici, due grandi paesi il cui destino non può essere appunto indifferente a tutti noi, al resto del mondo. Con questo abbiamo concluso. Io ricordo ancora una volta, Leonello Fani è cooperante, lavora per Apurimac, trovate anche le indicazioni sul lavoro di questa ONG sul sito radio24.it. Non mi rimane che ringraziare Peter Bescapè in regia, salutarvi e darvi appuntamento naturalmente alla prossima settimana.